Mix 24 di Giovanni Minoli. 23 marzo 1903. I fratelli Orville e Wilbur Wright presentano un brevetto per il primo velivolo a motore che può essere comandato in volo. Nel 1923 l'esercito americano si interessa al marchingegno volante del russo Georg de Bethesda, ma è lo spagnolo Juan de la Sierva che fa finalmente volare il suo autogiro nel 1924. Nel maggio del 1927 il mondo segue con ansia la straordinaria impresa di Charles Nangesser e François Collet. I due piloti tentano di attraversare l'Atlantico sul Oiseau Blanc. L'aereo non verrà più ritrovato. Charles Lindbergh prende il volo a bordo del suo Spirit of St. Louis. Dopo 33 ore e 29 minuti atterra a Parigi. Once I get you up there. Il nuovissimo aeroplano senza elica, ideato e costruito da italiani, rivoluziona la tecnica aviatoria ed apre una nuova era per l'aeronautica. L'aereo energia solare Solar Impulse 2, concluso la traversata del Pacifico. Hello, hello Solar Pulse. Hello, Captain Picard. Where are you now flying? Good afternoon, Mr. Secretary General. Yes, Mr. Secretary General, I hear you, Excellencies. Yes, I speak to you from the cockpit of Solar Impulse in the middle of the Pacific, flying on solar power only, no fuel. I took off yesterday from Hawaii. I'm now flying and landing tomorrow evening in San Francisco. Era la telefonata tra il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, e Bernard Picard, il pilota a bordo del Solar Impulse 2, l'aereo ad energia solare che ha concluso qualche giorno fa la traversata del Pacifico con un volo non stop di 62 ore. Insomma, un'altra pagina della storia del volo è stata aperta. Dottoressa Paola Catapano, buongiorno. Il Solar Impulse 2 partito dalla Hawaii ha volato per più di 60 ore e atterrato a Mountain View vicino a San Francisco sorvolando il Pacifico solo grazie all'energia solare. Ci spiega brevemente come funziona? Sì, Solar Impulse è un aereo grande come un Boeing 747, ha un'apertura alare di 72 metri e queste ali sono coperte da pannelli solari. Sono più di 17.000 celle solari incapsulate sulla superficie delle ali per tutta la loro lunghezza, celle fatte di materiali conduttori che raccolgono fino a 340 kWh di energia al giorno. Ecco, il sole viene trasformato in che cosa? È come qualsiasi pannello solare, il pannello converte l'energia del sole in energia elettrica. E l'energia elettrica alimenta quattro motori da 17 cavalli e mezzo ognuno, quindi come una moto qualsiasi, sì. E durante il volo addirittura di giorno accumula energia. Di notte, quando il sole non c'è, come funziona? Accumulando energia di giorno, più di quanta gliene serva per restare in volo, accumula questa energia nelle batterie con un'efficienza del 95%, questo è un grandissimo record di energia, di uso ed efficienza energetica, e quindi di notte utilizza questa energia accumulata. Per di più, non solo di notte ma anche di sera e all'alba quando il sole è molto debole. E quando vola di giorno, questo aereo vola molto alto. Mentre vola, ogni singolo watt non utilizzato viene accumulato dalle batterie. Il vero segreto è questa efficienza energetica pazzesca, le componenti molto leggere, ma anche il fatto di questo ciclo solare che, appunto, quando il sole è più debole, comincia a scendere. Senta, dalla però, quota, non consuma assolutamente niente. Dottoressa Catapano, però, diceva lei giustamente che ha un'apertura alare di 72 metri, come un Boeing 747, ma trasporta un solo passeggero, è così, no? Certo, questo è un prototipo, è un volo pionieristico, è proprio come quando i fratelli Lindbergh hanno attraversato per la prima volta l'Atlantico, nessuno avrebbe creduto che un giorno gli aerei... Che poi si sarebbero sviluppato, certo. Ecco, in una cabina di pilotaggio senza aria condizionata, né senza... E anche senza riscaldamento, dicevamo prima, a un'altitudine di 8.500 metri, quali sono le temperature? Sì, non solo, è anche una cabina non pressurizzata. Non pressurizzata. All'interno del cockpit la variazione termica può essere fra i meno 20 e più 35 gradi Celsius e chiaramente il pilota è praticamente un astronauta, è allenato, addestrato ed equipaggiato per sostenere non solo appunto gli sbalzo di temperatura, ma per respirare anche ossigeno. Esattamente, quindi quando vola in quota ha un respiratore, certo, ha bombole d'ossigeno, ma diciamo la vita in quel cockpit è una vita da estrema, perché ecco, non ci si può muovere, sono 3,8 metri cubi. A che velocità può arrivare? E come dicevo, i motori sono paragonabili a quelli, sì, di una motocicletta, il peso dell'aereo, anche se così grande, è paragonabile a quello di un'auto classica. Con vento a favore può arrivare a 200 all'ora, ma in realtà la velocità media sono di 50 km orari. Senta, per Bernardo, per attraversare... Sì. No, scusi, perché c'è il tempo. No, dicevo, per quello, per attraversare il Pacifico dalle Hawaii fino a San Francisco, cosa che ha fatto lo scorso weekend, ci ha messo 62 ore. Certo. E il pilota, Picard, ha raccontato che la difficoltà maggiore è stata quella del riposo. Perché? Perché non si poteva, certo, se è solo non si poteva dormire. No, perché è praticamente un volo perpetuo questo. Tutto è manuale. E non solo, questa è una, diciamo, qualsiasi pilota ben addestrato può imparare a pilotare le particolarità di questo aereo, che è molto grande, con un'apertura alare enorme, va molto piano, quindi è molto molto sensibile alle turbolenze. Ma la difficoltà principale più che altro è quella di restare praticamente svegli durante per 3 giorni di fila. Piccare uno psichiatra, pratica l'autoipnosi e riesce a fare dei riposi di massimo 20 minuti di sonno leggero, non va mai in sonno profondo, proprio perché questo aereo è estremamente delicato, in particolare sul Pacifico ci sono turbolenze. Quindi in qualche modo conserva l'attenzione. Ecco, crede che questo... Sì, no, volevo dire una cosa importante, comunque ha un mission control a Monte Carlo, che è sponsorizzato dal Principe Alberto, e che ha un team di 40 persone che lo seguono continuamente, espertissimi di tutte le tecnologie e di tutte le abilità necessarie intorno all'aviazione. Ecco, senta, lei crede, dottoressa Catapanno, lei crede che questo tipo di aerei a energia solare potrà diventare un aereo di linea un domani? Diciamo, questa non è la ragione per cui Picard si è lanciato in questa impresa. Ricordiamo che sta circumnavigando il globo terrestre, certo, in varie tappe. La prossima tappa attraverserà gli Stati Uniti per arrivare in Nord America, anzi in Arizona prima, e poi New York, poi l'Atlantico, e dopo il Nord Europa lui spererebbe di arrivare a Parigi per ripetere l'impresa di Lindbergh, sì, New York-Parigi, molto simbolica, ma la tappa, diciamo, finale in Nord Europa non è ancora definita, perché dipende tutto moltissimo dalle condizioni meteo e sì, non mi ha detto se può evolversi e diventare un aereo di linea. Diciamo che lo scopo di questa trasvolata è uno scopo dimostrativo del fatto che le energie rinnovabili, questo è un aereo che non consuma una goccia di combustibile, sì, solo l'energia solare, l'abbiamo detto. È la dimostrazione che le rinnovabili sono sfruttabili, si possono utilizzare oggi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Bene, una nuova frontiera dell'avventura della ricerca umana. E tu, Pietrangelo, come ci introduci oggi musicalmente? Coi piedi pazzi. Oh Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Allora, tutti erano fermi oggi in metropolitana, tutti, chi appeso ai corrimani, chi seduto, ma proprio tutti fermi, però coi piedi preda di corse selvagge, tutti fermi, ma ognuno preso da una folle corsa per portarsi fino in fondo, dove il tempo arriva e dove cadere è un continuo andare. Ha chiamato Gabriele D'Annunzio, ha voluto questa canzone per Alcione con un messaggio: ma se piove in Pineta, possiamo poi aprire la capote del maggiolone? Do you dare to look them right in the eyes? Allora... No, Giovanni, sono imbarazzato perché stamattina, sì, anche quando noi ci vediamo, no? io e Minoli e Pietrangelo ci incontriamo mentre, sì, prepariamo la trasmissione, quindi ci guardiamo, poi diciamo cosa facciamo, perché noi la scriviamo in diretta quasi. Sì. E oggi ero veramente in difficoltà perché ci sono molte cose. Sì. Facciamo partire la musica e poi proviamo a fare insieme quello che musicalmente si chiama medley improvvisato. Sì. Vai. questo è bellissimo. Questi Beh. Sono i Daft Punk e questa è la colonna sonora di Tron Legacy. E allora fantastico. Dove andiamo? E allora andiamo, guarda, prima di tutto volevo da te una considerazione sulla Bundesbank che ha attaccato con pesantezza, devo dire, inusitata, Paduan, Draghi, e insomma, che cosa sta succedendo secondo te? Vediamo se mi dai una cosa originale. Non lo so, secondo me i tedeschi cambiano strategia. Cambiano strategia, l'accordo con Obama forse li ha rassicurati su cose a cui loro tenevano molto e vogliono fare sentire il pugno duro di nuovo. Senti, io invece ho un sospetto, che quando Obama ha inaugurato l'altro ieri il G5, cioè questo format ristretto, in realtà si stia pensando al vecchio progetto di Kern Europa, cioè di Europa, piccola, molto ristretta. Che ne pensi? Un capo sicuro che è il tedesco. Che è il tedesco. Pietrangelo, tu sei d'accordo? D'accordissimo. Ammazza questa mattina. L'altra cosa che ho visto è che l'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita. Questa è un po' una sorpresa per gli italiani. Abbiamo il nostro ospite fisso, il professor Bernabé, che è il geriatra numero uno, ci aveva anticipato questa ricerca e effettivamente, è anche se è poco, quello di cui è diminuita forse la aspettativa un po' di vita, un po' enfatizzata, per non parlare di rogne peggiori, insomma, ci rifugiamo in queste notizie che fanno colore, però naturalmente contemporaneamente dobbiamo tener conto del fatto che aumenta il numero dei centenari, quindi insomma tu Pietrangelo ambisci a essere centenario. Una nostra ascoltatrice ci segnala che le aspettative di vita, la nostra ascoltatrice Chicca Maralfa ci segnala aspettative di vita al sud, in Campania, in Sicilia in particolare, sono ridotte di 5 anni. Di 5 anni, non di 2 mesi, come la media. Capisco, come in Sicilia, Polli di Renzi, capisco in Sicilia c'è Crocetta, in Campania chi c'è? Ah sì, l'amico di Renzi. L'altra cosa che è sottostimata dai giornali, però c'è un bellissimo, secondo me, editoriale di Paolo Valentino sul Corriere della Sera stamattina, è la Libia. Argomento a cui io tengo molto. Teniamo tutti molto. Ieri è successo un fatto, guardate, molto significativo, lo segnalo, che una petroliera che è partita e aveva estratto petrolio che veniva dalla Cirenaica, quindi petrolio dell'ISIS, petrolio insomma illegale, ed è arrivata a Malta e la petroliera è stata fermata. Quindi qua c'è in corso una guerra tra clan per il controllo del petrolio. Quindi ragazzi, noi prima di andare là, secondo me ci dobbiamo fare un paio di conticini molto seri. Mi sembra che la prudenza sia ancora quella che è detta la linea, mi sembra. Sì, sono queste tre cose, ce ne sarebbero anche molte altre, ma lasciamo stare. Sperando che non l'ha detto gli Stati Uniti d'America la linea. No, sulla Libia no. Non gliene frega niente. Esatto. Più che petrolio, il DDT. I musei dovrebbero essere il nostro petrolio, e pur con un direttore che arriva dalla Linda Friburgo è accaduto agli Uffizi a Firenze ciò che non si immaginava potesse mai accadere. Cosa è accaduto? La proliferazione di zecche tra i capolavori dell'arte e dell'orgoglio occidentale. Zecche non proprio nel senso delle cosine schifose che pungono e che possono essere pure letali, zecche di quelle che di solito abitano il collo dei cani, non dunque in senso figurato i pargoli antagonisti appena mobilitati, anzi smobilitati da poco nella loro festa d'aprile, ma zecche di quelle già tese da Nostradamus in una celebrata quartina. Leggo, vado a leggere traducendo. In Campania, Firenze, Siena e Tuscia non pioverà per 6 mesi e 9 giorni. Dunque stiamo parlando di zecche foriere di siccità. E perciò presagi cupi, se appunto, come nota il Fatto Quotidiano di oggi, Nostradamus in fondo ha capito tutto, perché tra Tuscia e Firenze cosa sbuca? Sbuca l'Etruria, E perciò con l'Etruria. Se guardi il riflesso. Ah, tu credevi che arrivasse l'altra canzone? No! Questa volta no, questa volta questa. Mettiamo le civette sul comò che fanno da contrasto alle zecche. Insomma, da cosa nasce cosa? E perciò zac, spunta la zecca. Zecca nel senso dei lingotti forniti dalla nota banca ai quiz milionari della Rai? No! Urge in questo caso altra quartina di Nostradamus. Forse sono troppi i piccioni che hanno nidiato sui tetti e sui cornicioni dello stesso museo, oppure dell'attiguo palazzo municipale dove ebbe lustro e brusco il divin Matteo. È un segno dunque, è un segno, un temuto avviso recapitato per tramite del guano, che sarebbe il tappeto di pupù su cui Matteo nostro dovrebbe fare una riflessione. Più che il petrolio, il DDT. Più che il gufo, potè la zecca. Per non dir della blatta trovata al museo del Novecento, ecco, qui più che Nostradamus urge Ovidio, e lui dovrebbe mutarsi, ecco, dovrebbe avere il becco. Più o meno come fa un piccione. Lo so che è brutto il paragone. Non in quel senso, no. Ma becco. Ma il becco. Dai, di beccare. Vai con la bolla, è Mario. È malpensante. Dai, sì. Siamo allora, siamo di corsa, sì. Però segnalo che nel mondo, nel settore tecnologico è successa una cosa molto importante sulla quale riflettere, magari ci torneremo in seguito. Apple dopo 13 anni di segno più ha fatto segnare un meno clamoroso, un po' lo si attendeva, però la corsa dell'iPhone è finita. Questo significa molte cose sul piano culturale, dei consumi, dello stile di vita. Sta succedendo una rivoluzione molto grande, sono diminuiti, ovviamente il segno meno è ovunque, meno iPhone, meno iPad, meno iPod, questo già si è visto, meno Mac. Guardate, vabbè, che quando tanto... Apple, tu dici doveva toccarli. Beh, certo, prima o dopo anche lei, certo, ma quando tocca a loro significa che qualcosa di grande sta succedendo. Beh, vuol dire in che quel mondo tutti l'hanno comprato e quindi il mercato è saturo e quindi servono nuovi prodotti e quindi vedremo l'Apple Card. Si può dare anche una calmata. Penso che nella giornata in cui, come abbiamo detto, è arrivata la notizia che la vita, la speranza di vita si è leggermente accorciata, a meno che in Sicilia, e il professor Roberto Bernabei, e anche in Campania, grande geriatra, come sempre con lui commentiamo appunto le più importanti notizie di medicina che sono apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, febbraio 2016. Effetti della terapia con testosterone negli anziani. In un recente studio, e ve ne ho parlato, l'abbiamo portato qui a Radio 24, ha mostrato che la terapia con testosterone non aveva effetto sulla funzione sessuale, sulla qualità della vita in anziani con testosterone diminuito. Qui c'è uno studio che ha voluto essere un pochino più preciso e quantificare in modo corretto la diminuzione della libido, la difficoltà a salire le scale o a camminare e la stancabilità di un numero importante, svariate centinaia, di anziani con un basso livello di testosterone, per vedere poi se i punteggi ricevuti prima della terapia miglioravano dopo la terapia e quindi quantificare con vera precisione se c'era effetto della terapia o meno, ripeto, sulla libido, sulla difficoltà a salire le scale, a camminare, sulla stamina, sull'energia e sulla stancabilità. Allora, i risultati sono in qualche modo allineati con quelli che vi avevo già presentato. Non ci sono efficacia sulla difficoltà a salire le scale, camminare, sulla stancabilità, e c'è una efficacia sulla funzione sessuale, ma è un'efficacia statistica, e sempre bisogna andare a guardare sotto la coda di questi studi, perché il punteggio migliorava su una scala da 1 a 12 punti di 0,6 punti, che è statisticamente valido, ma oggettivamente nella vita di tutti i giorni vi assicuro che aggiunge ben poco. Quindi ancora una volta si conferma il trend che vi abbiamo già detto, che la terapia sostitutiva con testosterone fa poco o nulla. subito dopo il telegiornale, come abbiamo annunciato, la storia di Antonio Gramsci. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Oggi la storia di un re e della sua regina, del tempo in cui si cibavano di pane e ciliegie e si nutrivano solo di baci. E che baci! Roberto Murolo, Reginella. Ho voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'ha mamma più, mai voto tu. Distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo con mica, non mangiava capane cerase, noi campavamo i vasi. E che vase, tu cantavi e chiagniva per me. Io cartilla cantava cuttica, Reginello va bene a sto re.